Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. La maggior parte della vita è così monotona che non c'è proprio niente da dirne. E i libri e i discorsi che la descrivono come una cosa interessante sono costretti a calcare la mano, nella speranza di giustificare la propria esistenza. Dentro il suo bozzolo di lavoro o di obblighi sociali, lo spirito umano per lo più sonnecchia, notando la differenza tra piacere e dolore, ma niente affatto vigile come vogliamo far credere. Nella giornata più intensa ci sono momenti in cui non succede nulla, e anche se continuiamo a esclamare «mi diverto» o «sono atterrito», non siamo sinceri. Fintanto che provo qualcosa, è gioia, è orrore. In realtà non c'è nulla più di questo, e un organismo perfettamente adattato conserverebbe il silenzio. Proprio per questo erano trascorsi 15 giorni senza che Mrs. Moore e Miss Quested avessero provato nessuna sensazione profonda. Avevano vissuto più o meno dentro il loro bozzolo e l'unica differenza tra loro era che la più anziana accettava la propria apatia, mentre la più giovane ne soffriva. Adela aveva la convinzione che tutto il corso delle cose è importante e pieno di interesse, e se era sempre più annoiata, rimproverava acerbamente se stessa e si costringeva a esclamazioni di entusiasmo. Questa era l'unica mancanza di sincerità in un carattere peraltro sincero, ed era proprio la protesta intellettuale della sua giovinezza. Adesso si sentiva particolarmente irritata perché era in India e stava per sposarsi, duplice evento che avrebbe dovuto rendere sublime ogni istante. L'India quella mattina era certamente opaca, sebbene la vedessero sotto gli auspici degli indiani. Il suo desiderio era stato esaudito, ma troppo tardi. Lei non riusciva a esaltarsi di Aziz e dei suoi preparativi. Era tutt'altro che malcontenta o depressa, e gli strani e svariati oggetti che la circondavano, quel buffo scompartimento con la tenda, i mucchi di coperte e di cuscinetti, i meloni che ruzzolavano, il profumo di oli aromatici, la scala, la cassa dai bordi di ottone, l'improvviso sbucare dalla ritirata del maggiordomo di Mahmud Ali con un vassoio di tè e di uova in camicia, tutto era nuovo e divertente e le suggeriva i commenti del caso, ma non incideva sulla sua anima. E allora cercò di consolarsi pensando che d'ora in poi il suo principale interesse sarebbe stato Ronnie. Che servo allegro e simpatico, che sollievo dopo Anthony. Fanno sobbalzare la gente, direi. Strano posto per fare il tè, disse Mrs. Moore, che aveva sperato in un pisolino. Voglio licenziare Anthony. Mrs. Moore pensò che il lato migliore di Anthony sarebbe venuto fuori a Simla. Miss Quested doveva sposarsi a Simla. Era stata invitata da certi cugini che avevano una casa affacciata proprio sul Tibet. Comunque dobbiamo prendere un secondo servo, visto che a Simla voi starete in albergo e non credo che quello di Ronnie... Le piacevano i progetti. Benissimo, tu prenditi un altro servo, e io mi tengo Anthony. Mi sono abituata ai suoi modi così scostanti. Mi aiuterà a superare la stagione calda. Io alla stagione calda non ci credo. La gente che ne parla sempre come il maggiore Callendar, in fondo sperano di farti sentire inesperta e trascurabile, proprio come con quell'eterno «sto in questo paese da 20 anni». «Io ci credo», riprese Mrs. Moore. «Ma non immaginavo che mi avrebbe bloccata, come invece succederà. Perché grazie alla loro prudente tattica dei piedi di piombo, Ronnie e Adela non potevano sposarsi fino a maggio, e di conseguenza Mrs. Moore non poteva tornare in Inghilterra subito dopo le nozze, come aveva sperato. A maggio una barriera di fuoco sarebbe piombata sull'India e sul vicino mare, e lei doveva restarsene appollaiata sull'Himalaya in attesa che il mondo rinfrescasse». «Io non mi farò bloccare», dichiarò la ragazza. «Non sopporto queste donne che lasciano i mariti ad arrostire in pianura. Mrs. McBride non è rimasta giù una volta sola da che si è sposata. Per metà dell'anno lascia solo il suo intelligente marito e poi si meraviglia di non essere affiatata con lui. È che ci sono i figli, capisci?» «Già, è vero», disse Miss Quested sconcertata. «I figli vengono sempre avanti a tutto, finché non crescono e non si sposano. Soltanto allora si torna ad avere il diritto di vivere per se stessi, in pianura o in montagna, come si vuole». «Già, avete proprio ragione, non ci avevo mai pensato. Se nel frattempo non si è diventati troppo vecchi e stupidi». E porse la tazza vuota al servo. «La mia idea è che i miei cugini devono trovarmi un servo a Simla, se non altro finché non mi sposo, perché dopo Ronnie vuole riorganizzare tutta la servitù. Finché è scapolo le cose vanno, ma una volta sposato bisognerà fare molti cambiamenti, su questo non c'è dubbio. I suoi vecchi servi non saranno disposti a prendere ordini da me e non gli posso dare torto». Mrs. Moore tirò sulla tendina e guardò fuori. Aveva avvicinato Ronnie e Adela, assecondando il loro reciproco desiderio, ma adesso non era più in grado di dare consigli. Sempre di più sentiva, era visione o incubo, che sebbene gli individui siano importanti, i legami tra loro non lo sono, e che in particolare si era fatto troppo scalpore sul matrimonio. Secoli di amplessi carnali e l'uomo non è più vicino a capire l'uomo. E quel giorno lo sentiva con tanta forza che perfino questo le pareva un legame, addirittura come una persona che cercasse di afferrarle la mano. «Si vede qualcosa delle montagne?» «Appena qualche ombra sul buio». Adela scrutò nel crepuscolo senza tempo. Il treno avanzava. Tutum, tutum, tutum, facevano le ruote mentre ruzzolavano sul ponte con un moto molto lento. Tornò con la mente ai suoi progetti. I progetti erano stati la sua passione sin dall'infanzia. Ogni tanto pagava il suo scotto al presente, vantò l'intelligenza e la cordialità di Aziz, mangiò un frutto, non riuscì a mangiare un dolce fritto, fece esercizio di urdu col servo, ma i suoi pensieri si sviavano sempre verso il malleabile futuro e la vita anglo-indiana che aveva deciso di sopportare. E mentre soppesava quella vita con le sue appendici di Tarleton e Barton, il treno accompagnava i suoi pensieri. Tutum, tutum. Quel treno mezzo insonnolito, senza una meta precisa, senza un solo passeggero importante in nessuna delle sue carrozze. Il treno della ferrovia secondaria, perduto su un basso terrapieno tra squallidi campi. Il suo messaggio, perché un messaggio l'aveva, sfuggiva alla categorica mente della ragazza. Molto lontano, alle sue spalle, con un fischio che voleva dire affari seri, correva il postale che univa città importanti come Calcutta e Lahore, dove succedono avvenimenti di rilievo e le personalità si sviluppano. Questo Adela lo capiva. Disgraziatamente l'India ha poche città importanti. L'India è terra, campi, campi, poi monti, giungla, monti e ancora campi. La ferrovia secondaria finisce, la strada è praticabile fino a un certo punto solo per le macchine, i carri da buoi ciondolano per i trattori laterali, i sentieri si sfrangiano tra le terre coltivate e spariscono vicino a una chiazza di vernice rossa. Come può la mente venire a capo di un paese così? Generazioni di invasori hanno tentato, ma rimangono in esilio. Le città importanti che costruiscono non sono che rifugi. Le loro controversie non sono che il disagio di gente che non riesce a sentirsi a casa propria. L'India conosce la loro inquietudine. Conosce l'inquietudine di tutto il mondo, in tutta la sua profondità. Essa grida, vieni, con le sue 100 bocche. Con parvenze ridicole e auguste. Ma vieni a che cosa? Questo non l'ha mai precisato. L'India non è una promessa, è solo un richiamo. Kamachi kamakoti pitavasini mamava kamachi kamakoti pitavasini mamava kamachi. Simla, verrò a prendervi quando farà abbastanza fresco. Vi sblocco io, state certa, continuò l'ottimista ragazza. Poi vedremo qualche cosa dei Mogul. Impossibile lasciarvi partire senza che abbiate visto il Taj Mahal. E poi vi farò imbarcare a Bombay. L'ultima visione che avrete di questo paese bisogna proprio che sia interessante. Ma Mrs. Moore si era addormentata, stanca, morta dopo la levataccia. Era piuttosto malandata in salute e non avrebbe dovuto affrontare quella gita, ma si era fatta forza per non rovinare il divertimento agli altri. I suoi sogni erano imbastiti sullo stesso canovaccio, con la differenza che là erano gli altri suoi figli ad aver bisogno di qualcosa, Stella e Ralph, ai quali spiegava che non poteva trovarsi contemporaneamente in due famiglie. Quando si svegliò, Adela aveva smesso di fare progetti e si sporgeva dal finestrino dicendo «Che meraviglia!». Già stupefacenti per chi li guardava dall'altura del centro amministrativo, qua i Marabar erano come dei per i quali la terra è un fantasma. Il più vicino era il Kawadol. Balzava su tutto d'un blocco e sulla sua cima si librava una roccia, se un macigno così grande può chiamarsi una roccia. Dietro a quello si prostravano i monti che contenevano le altre grotte e larghi solchi di pianura li isolavano l'uno dall'altro. Erano 10, una colta che si spostava via via che il treno strisciava ai suoi piedi, quasi ne stessero osservando l'arrivo. «Non avrei voluto perdere una cosa simile per tutto l'oro del mondo», disse la ragazza, esagerando il proprio entusiasmo. «Guardate, sta per sorgere il sole, sarà uno splendore, venite, presto, guardate!» «Oh, non avrei voluto perdere una cosa simile per tutto l'oro del mondo, non l'avremmo mai vista se fossimo rimaste appiccicate ai Tarton e ai loro eterni elefanti!» Mentre parlava, tutto il cielo alla loro sinistra si tinse di un arancione arrabbiato. Il colore palpitava, saliva dietro un profilo di alberi, si fece più intenso, ancora più vivido, incredibilmente più vivido, spremuto dal di fuori contro la cupola dell'aria. Le due donne aspettavano il miracolo. Ma nel momento supremo, quando la notte doveva morire e vivere il giorno, non accadde nulla. Fu come se la virtù venisse meno alla fonte celestiale. I colori a oriente si smorzarono, le montagne apparvero più opache, mentre in realtà erano più illuminate, e un profondo disincanto subentrò con la brezza del mattino. Quando il talamo era pronto, perché mai lo sposo non entrava con trombe e pifferi, come l'umanità si aspetta, il sole spuntò senza splendore. Poco dopo lo si vedeva arrampicarsi giallastro dietro gli alberi o lungo un cielo insulso e toccare le schiene già curve nei campi. «Ah, questa deve essere la falsa aurora. È provocata dalla polvere degli strati superiori dell'atmosfera che non riesce a precipitare durante la notte, no? Mi pare che Mr. McBride abbia detto così. Beh, devo riconoscere che in fatto di aurore l'Inghilterra si porta meglio». Vi ricordate Grasmer? Ah, la mia amata Grasmer. I suoi piccoli laghi e i suoi monti erano cari a tutti quanti. Romantica ma trattabile, era venuta fuori da un pianeta più gentile. Qui una caotica pianura si spingeva fino ai ginocchi dei Marabar. «Buongiorno, buongiorno! Mettetevi il casco!» gridò Azizia dal fondo del treno. «Mettetevelo subito! Il primo sole fa malissimo alla testa! Parlo come medico!» «Buongiorno, buongiorno! Cominciate a mettervelo voi!» «Ah, oh, io ho la testa dura!» disse lui con una risata, battendosela coi pugni e tirandosi manciate di capelli. «Com'è simpatico!» mormorò Adela. «Dottor Aziz, che cosa è successo alle vostre montagne?» «Il treno si è dimenticato di fermarsi», scherzò Mrs. Moore. E Aziz, rispondendo allo scherzo, «Forse è un treno circolare che torna di filato a Chandrapur. Chi lo sa?» Dopo aver vagato nella pianura per un miglio, il treno si fermò a ridosso di un elefante. C'era anche un marciapiede, ma striminzito fino all'inverosimile. Un elefante che ciondolava verso il mattino la fronte dipinta. «Oh, che sorpresa!» esclamarono educatamente le signore. Aziz non disse nulla, ma quasi scoppiava di orgoglio e di sollievo. L'elefante era l'unica grande trovata del picnic e Dio solo sapeva quante ne aveva passate lui per assicurarselo. Trattandosi di un animale quasi governativo, ci si era potuti arrivare per il tramite del Nawab Bahadur, al quale si era potuti arrivare per il tramite di Nureddin, che però non rispondeva mai alle lettere, ma sua madre aveva un grande ascendente su di lui ed era amica della Begum Hamidullah, che era stata gentilissima e aveva promesso di andare a trovarla purché da Calcutta le rimandassero abbastanza presto la tendina rotta della carrozza parda. Che un elefante fosse sospeso a un filo così lungo e sottile riempiva Aziz di gioia e di ironica stima per l'Oriente, dove gli amici degli amici sono una realtà, dove una volta o l'altra si arriva a tutto e presto o tardi ognuno raggiunge la sua parte di felicità. Ci vuole un'ora per andare, un'ora per tornare e 2 ore per le grotte, diciamo 3, disse Aziz con un sorriso incantevole. Tutto a un tratto c'era in lui qualcosa di regale. Il treno di ritorno parte alle 11:30 e voi farete il vostro pranzo a Chandrapur con Mr. Hislop esattamente all'ora solita, cioè all'1:15. So tutto di voi. 4 ore, una gita brevissima. E un'ora in più per i contrattempi che qui, tra la mia gente, capitano con una certa frequenza. Ho voluto organizzare tutto senza consultarvi, ma voi, Mrs. Moore e Miss Quested, siete padronissime di fare in qualsiasi momento tutti i cambiamenti che volete, anche se per questo si dovesse rinunciare alle grotte. Intesi? Allora, montate su quest'animale selvaggio. L'elefante si era piegato sulle ginocchia, grigio e isolato come un'altra montagna. Le due donne si arrampicarono sulla scala, mentre Aziz montava posando il piede prima sull'orlo aguzzo dello zoccolo e poi sulla coda a cappio. Dopo l'animale si alzò con 2 movimenti sussultori e li librò a 3 metri circa da terra. Sotto di loro c'era la forfora di vita che un elefante raccoglie sempre ai suoi piedi, contadini, bimbetti nudi. I servi caricavano il vasellame. Hassan si era preso lo stallone destinato ad Aziz e da quella altezza sfidava il servo di Mahmud Ali. Il bramino, che era stato assunto per preparare i cibi del professor Godbole, fu piantato sotto una acacia ad aspettare il loro ritorno. Il treno, sperando a sua volta di tornare, si allontanò barcolloni per i campi, girando la testa di qua e di là come un millepiedi. E solo un altro movimento era visibile, un movimento come di antenne, i contrappesi dei pozzi che lungo tutta la pianura si alzavano e ricadevano sui loro perni di fango e diffondevano un esiguo filo di acqua. Era una scena abbastanza piacevole nell'aria mite del mattino, ma non aveva molto colore e nessuna vitalità. Mentre l'elefante si dirigeva verso le montagne, ormai il sole pallido le aveva salutate alla base e pennellava d'ombra i loro crepacci, si manifestò una qualità nuova, un silenzio spirituale che non colpiva soltanto l'udito, ma altri sensi. La vita continuava come al solito, ma non aveva conseguenze, per così dire. I suoni non suscitavano echi, i pensieri non si sviluppavano. Tutto sembrava tagliato alla radice e perciò infetto di illusione. Per esempio, c'erano alcune montagnole lungo il margine del sentiero, basse, dentellate, segnate di un bianco di calcina. Cos'erano quelle montagnole? Tombe? I seni della dea Parvati? I contadini sotto l'elefante davano tutte e due le risposte. Più tardi, a proposito di un serpente, ci fu un altro equivoco e non si riuscì a chiarirlo. Miss Quested vide una cosa sottile e scura che stava dritta sull'altra riva di un corso d'acqua e disse «Un serpente!» I contadini furono d'accordo e Azì spiegò: «Sì, un cobra nero velenosissimo che si era drizzato per veder passare l'elefante». Ma quando lei guardò col binocolo di Ronnie, vide che non era un serpente, ma il ceppo disseccato e contorto di una palma. Allora esclamò: «Non è un serpente!» I contadini la smentirono. Lei gli aveva messo in mente quella parola e loro non volevano rinunciarci. Aziz ammise che, visto col binocolo, sembrava un albero, ma insistette che in realtà era un cobra nero e improvvisò alcune scempiaggini sul mimetismo protettivo. Niente era spiegato e tuttavia non c'era nulla di romanzesco. Nebbie di calore che vaporavano dai precipizi del Cavo Adol accrescevano la confusione. Venivano a intervalli regolari e si muovevano capricciosamente. Una zolla di terra saltava come se la friggessero, poi ricadeva immobile. Quando furono più vicini, quelle emanazioni cessarono. L'elefante puntava dritto sul Cavo Adol, quasi volesse chiedere permesso a colpi di fronte. Poi svoltò e seguì un sentiero che girava intorno alla base. I massi sprofondavano nella terra come scogliere nel mare, e mentre Miss Quested commentava quel fenomeno, dicendo che era impressionante, la pianura silenziosamente scomparve, come sbucciata via, per così dire, e dalle due parti non si vide più nient'altro che granito, tremendamente morto e immobile. Il cielo dominava come al solito, ma appariva di una vicinanza malsana, aderente come un soffitto ai culmini delle forre. Era come se nel cavo del baratro nulla fosse mai cambiato. Tutto preso dalla propria grandiosità, Aziz non notava niente. Le due invitate notavano poco. Non avevano l'impressione che fosse un posto piacevole, né che valesse la pena di visitarlo, e avrebbero voluto che si trasformasse in un cimelio musulmano, una moschea, per esempio, che il loro ospite avrebbe capito e spiegato. La sua ignoranza risultava evidente, e questo costituiva un certo svantaggio. Nonostante le sue chiacchiere allegre e fiduciose, Aziz non aveva la minima idea di come si dovesse prendere quel particolare aspetto dell'India. Là, senza il professor Godbole, Aziz era perduto quanto le due donne. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.